Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà? Se ha bisogno di chiamare Superman. Che mondo sarà? Fa l'effetto del motore che non va. Bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro al balloon, che oggi comincia col parlare della Costituzione italiana, anche forse per idealizzarla un po', in un momento in cui la nostra carta costitutiva viene maltrattata e stiracchiata per determinati fini politici ed economici. Quindi parliamo di La Costituzione, che storia. Testo scritto da David Conati ed Elisa Cordioli, per Edizioni Paoline, con le illustrazioni di Angela Allegretti. Come dunque far capire l'importanza della Costituzione ai lettori di un testo per ragazzi? L'operazione riesce guardandola con gli occhi di Enrico, ragazzo undicenne che fa il lustrascarpe nel negozio di barbiere del padre all'interno di Montecitorio. Siamo tra il 1946 e il 1947. In Parlamento allora fervono i lavori dell'Assemblea Costituente, gli echi della discussione tra i membri della Commissione arrivano anche alle orecchie del ragazzo. Semplici ma concreti desideri di un giovane lavoratore, questo lustrascarpe, che parla anche di ciclismo e di cinema. Sentiamo, presa dalla rete, la voce dell'autore David Conati, autore e compositore veneto. Collabora come traduttore con le principali agenzie teatrali nazionali, ha scritto testi dunque teatrali, ma anche saggi, filastrocche, romanzi, canzoni, manuali educativi, guide didattiche e si occupa pure di lavoratore di scrittura creativa e teatro con gli alunni delle scuole primarie e secondarie. Quando abbiamo deciso di raccontare la nascita della Costituzione con Elisa, che è coautrice del libro, ci siamo chiesti quale poteva essere una chiave di lettura interessante e quindi abbiamo fatto delle ricerche e abbiamo scoperto che a Montecitorio esiste una barberia e in questa barberia all'inizio, nel 1946, quando è ambientata la storia, oltre ai barbieri, lavoravano anche dei ragazzini che facevano i lustrascarpe e questo ci ha permesso di poter raccontare la storia da un punto di vista che non è un punto di vista adulto, ma quello di un ragazzino che si confronta con questi politici che frequentano la barberia dove lavora il padre di Enrico e che in questa maniera, spiegando quello che stanno facendo a Enrico, mediano il loro linguaggio che altrimenti diventerebbe difficile e pesante. Allora, l'idea era anche che Enrico avesse quasi una sorta di maestro, di guida, di mentore che gli forniva delle indicazioni un po' più tecniche, ma non da politico, ovvero in questo caso Aldo, il signor Aldo, come lo chiama Enrico, è uno tra i giovani deputati che fanno parte dell'Assemblea Costituente, tra l'altro dell'Assemblea dei 75, che si occupa proprio di redigere la Costituzione. E ci piaceva poter citare questa figura, appunto, di giovane deputato, che fornisse a Enrico degli strumenti anche per capire il lavoro che stavano facendo, avvicinandolo di più a quelli che potevano essere l'importanza della documento di questa Costituzione che stavano scrivendo. Nel racconto abbiamo cercato di mettere in risalto quelli che, agli occhi di Enrico, secondo Aldo, chiaramente potevano essere gli articoli che più avrebbero potuto interessarlo per il suo futuro, perciò il diritto allo studio, per esempio, perché nell'epoca in cui si svolge la storia non era automatico che tutti quanti i bambini studiassero, il diritto alla salute, che anche non era scontato, e così pure il diritto alla libertà, e poi tutta una serie di altri, il diritto al lavoro, il lavoro retribuito, perché di fatto Enrico, lui fa il lustrascarpe perché ha un suo obiettivo, lui vuole comprarsi una bicicletta. Infatti, appunto, Enrico ha questa passione forte per il ciclismo e l'epoca nella quale si svolge la storia, l'Italia, più che essere divisa, secondo le indiscrezioni della barberia, chiaramente discorsi un po', come dire, da barbieri, più che essere divisa tra monarchia e repubblica, l'argomento che divide gli italiani in quel periodo è Coppi o Bartali, che sono esattamente i due eroi idoli che infiammano le folle, due eroi del ciclismo naturalmente. Il padre di Enrico fa il tifo per Bartali, Enrico che è più giovane per Coppi. E il cinema anche, il cinema perché Gherardo che è l'amichetto, l'amico di Enrico, ha lo zio che fa il monta le pizze al cinema e quindi anche lì c'è la possibilità di raccontare un'altra parte della storia d'Italia attraverso alcuni film che Enrico e Gherardo vanno a vedere e poi commentano, e poi anche il racconto è infarcito di un sacco di citazioni da Ladri di biciclette, casualmente perché Enrico assiste suo malgrado proprio al furto della bicicletta di un attacchino che sta attaccando i manifesti, e poi Sciuscià, e poi altri film che fanno parte dell'epoca. Il romanzo La Costituzione che storia fa parte della collana Il Parco delle Storie, edito da Paoline, la collana è diretta da Fulvia degli Innocenti e lei ha proprio deciso di abbinare ad ogni romanzo anche delle tavole a fumetti disegnate per avvicinare di più i lettori e anche per dare un'immagine visiva al racconto, quasi come se fosse una sorta di film. Nella fattispecie, quelle di questo libro le ha disegnate Angela Allegretti, che è un'illustratrice professionista, che ha lavorato anche molto per il giornalino e quindi diciamo il fumetto aiuta anche a capire la storia. Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cielo fa, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano, e tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu, zazzarazzaz, zazzarazzaz, zazzazzarazzazzazzazzazzazz. È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse hanno voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai e vai che sto qui aspetto Bartali, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. C'è un po' di vento, abbaia la campagna, c'è una luna in fondo al blu. Tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Zazzarazzaz, zazzarazzaz, zazzarazzaz. Continuiamo con la seconda parte dell'intervista con Letterio Todaro, professore associato di storia della pedagogia, dipartimento di scienza della formazione di Catania, curatore del volume Gianni Rodari, incontri e riflessioni a 100 anni dalla nascita, e a Anicia Edizioni. Parleremo di educazione, di stato dell'editoria per ragazzi, dei tempi di Rodari e quelli di oggi. Professor Todaro, possiamo dire che l'esperienza che Gianni Rodari fece a Reggio Emilia insieme a Loris Malaguzzi, per esempio, il pedagogo, fu fondamentale per la costruzione della grammatica della fantasia? Questa è una pagina veramente bella, straordinaria della nostra pedagogia italiana e naturalmente chi si avvicina alla conoscenza di questo che rimane appunto uno dei testi fondamentali per conoscere Gianni Rodari, la grammatica della fantasia, conosce e conoscerà appunto esattamente che questo testo nasce dall'attività di un laboratorio, un vero e proprio laboratorio realizzato da Gianni Rodari insieme ai maestri delle scuole dell'infanzia, delle scuole elementari di Reggio Emilia, dove appunto, come si ricordava, era già in movimento, grazie principalmente alla figura di Malaguzzi, questo fermento di pedagogia democratica tenta di rovesciare un rovesciamento, diciamo, anche simbolico del modo di pensare la scuola, del modo di vedere la didattica, dove si fa, ecco, sottolineerei questo si fa nel senso appunto questo sforzo a costruire insieme, a creare insieme, a fare delle attività di diverso genere, i laboratori, quei laboratori che venivano pensati appunto per valorizzare le tante forme di intelligenza di cui i bambini sono capaci e che appunto avevano lì in quel luogo a Reggio Emilia un punto naturalmente importante del grande sforzo che si stava facendo, ecco, per cambiare un po' gli assetti della cultura pedagogica nei suoi riferimenti di base. Professor Todaro, veniamo all'oggi. Io le vorrei chiedere lo stato di salute del libro per l'infanzia, alla luce naturalmente della grande diffusione dei social e di tutto quello che è l'editoria digitale. Naturalmente, diciamo, oggi ci troviamo in un mondo che nel giro di 50 anni, dai tempi di Gianni Rodari, è cambiato moltissimo, soprattutto, ecco, in virtù di questa trasformazione tecnologica digitale. Questo è un po' il destino che ci aspetta anche nei prossimi decenni. Ma la cosa interessante è notare che il piano del libro per l'infanzia, dell'editoria per l'infanzia, della letteratura per l'infanzia, sia allora sia oggi, al di là, come dire, naturalmente di quella che poi è anche una sovrapposizione che proviene, come dire, da logiche di tipo commerciali che cercano facilmente di sfruttare l'aria per fare mercato. Ecco, lasciamo stare questo aspetto. Prendiamo l'aspetto più qualitativamente interessante, cioè il fatto che l'editoria per l'infanzia può rappresentare ieri, ma anche oggi, un grande laboratorio di idee e spesso si raggiungono appunto dei risultati di grande qualità. Naturalmente io parlo dalla Sicilia e mi muovo in un ambito che da questo punto di vista è anche periferico, ma penso alla straordinaria occasione che annualmente si ha a Bologna con la Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi, come dire, una grande officina in cui anno per anno si possono vedere questi grandi lavori. L'editoria di oggi riesce, come dire, a portare avanti in un mondo che richiede grandi professionalità sotto diversi punti di vista, perché sappiamo appunto che oggi l'editoria per l'infanzia è un grande laboratorio dove operano figure che si occupano di testo, professionisti dell'illustrazione, professionisti del design. Se facciamo un paragone con Rodari, i libri di Rodari non sono appunto soltanto i libri che noi leggiamo, sono i libri anche che noi vediamo. Voglio riferirmi appunto per esempio alle straordinarie illustrazioni di Munari o di Altan che nel tempo hanno accompagnato l'edizione dei libri di Gianni Rodari, ma questo appunto è un segnale del fatto che il libro per l'infanzia ha una sua statura di oggetto culturale che merita grande attenzione, che forse oggi, proprio perché ci troviamo in un contesto in cui i codici della comunicazione si mescolano, i linguaggi si mescolano, può essere ancora una volta un grande laboratorio appunto di incontro e di generazione di grande creatività artistica. Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tetto. Non si poteva fare pipì perché non c'era vasino lì. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Ma si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tetto. Non si poteva fare la pipì perché non c'era vasino lì. Ma era bella, bella davvero, il mio dei matti numero zero. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare lento in quella casa, non c'era il tetto. Non si poteva fare la pipì perché non c'era il vasino lì. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Come spesso succede, ci raggiunge in trasmissione Rachilla Cuparone con le sue interviste che in qualche modo fanno il punto sulle novità editoriali, su quello che si muove nel cielo dei fumetti. Cosa ci porti oggi, Rachele? Oggi vi porto un'intervista fatta a un grande personaggio del mondo dei fumetti, che è Emiliano Mamucari. Con lui ho parlato di Orfani, una saga di fantascienza a fumetti creata appunto da lui insieme a Roberto Recchioni, quindi grandi nomi dell'editoria di Sergio Bonelli Editore, appunto. Dopo l'uscita in edicola dei 3 capitoli della stagione Terra, che sono diciamo uno spin-off di Orfani, che è una sceneggiatura di appunto Emiliano e anche il fratello Mamucari, Giovanni Masi e Mauro Uzzeo, e con i disegni anche di Alessio Avallone, Luca Genovese e Matteo Cremona, vengono ora pubblicati in un unico volume, in una edizione cartonata da libreria, con anche una copertina inedita firmata proprio dallo stesso Emiliano Mamucari. Sono usciti già da un mesetto, forse anche qualcosa di più, e io appunto ne ho parlato proprio direttamente con Emiliano Mamucari, che mi ha raccontato un po' il dietro le quinte di questa grande composizione della Sergio Bonelli Editore. Buongiorno a Emiliano Mamucari e benvenuto su Radio Città Fujiko. Ciao, ciao a tutti. Orfani Terra è la quinta stagione del grande progetto editoriale di Orfani. Questa storia era già inserita nel progetto o è venuto, diciamo, strada facendo? In realtà è uno spin-off, come si dice tecnicamente, cioè una storia che corre in parallelo nello stesso mondo, quindi può essere letta assolutamente a sé stante, più che quinta stagione. Nasce in un modo particolare, doveva essere soltanto uno speciale estivo, perché diciamo la storyline principale di Orfani parla di questo gruppo di ragazzini orfani, appunto, che per una serie di vicissitudini, dopo un disastro diciamo sulla Terra, è costretto appunto insieme all'umanità a lasciare la Terra, e le avventure si sviluppano in una colonia che si chiama Nuovo Mondo. E a noi interessava raccontare anche la storia di chi invece rimaneva in questo pianeta che stava morendo ma voleva vivere. La storia quindi nasce in questo modo, ma poi si è sviluppata perché alla casa editrice è piaciuta molto, e da un piccolo speciale è diventata una vera e propria saga. E nello specifico su cosa vi siete concentrati in questo spin-off, appunto, come l'hai appena definito tu? Ci siamo concentrati appunto su questo gruppo di ragazzini che finisce a fare praticamente tritolato nel mondo, nelle maglie di questa economia che sta morendo perché si è fermato tutto. Noi abbiamo immaginato che l'asse della Terra sia spostato, per cui tutte le zone floride del mondo, le zone produttive, in realtà adesso sono le zone invivibili, e l'umanità è costretta a scappare nei posti in cui si può ancora vivere, solo che quei posti sono bloccati dai muri che ci siamo costruiti. Ora, senza fare giochi di parole, questa storia insomma è nata nel periodo proprio della propaganda di Trump, quando stava salendo diciamo al potere, stava parlando di muri, quindi abbiamo immaginato che cosa succederebbe se noi costruiamo un muro e poi siamo costretti a scappare e ce lo ritroviamo davanti. All'interno di Orfani si parla molto di potere, di ribellione, di approfittatori. Qual è il messaggio che volete mandare? Ma non so se vogliamo mandare proprio un messaggio. Non so nemmeno se credo alle storie in cui ci sono i messaggi, però sicuramente c'è una forte rabbia nei confronti dei vecchi che hanno rubato il futuro ai giovani. Però partendo da lì c'è anche il desiderio e la voglia di ricostruirsi un futuro nonostante tutto e tutto. tutti. Per quanto riguarda invece il metodo di lavoro, ne avete utilizzato uno particolare, perché questo è un progetto che coinvolge più menti e anche più umani. Avete un metodo comunicativo fra tutti voi? Noi siamo un gruppo di lavoro molto coeso e molto allargato. Siamo cresciuti tutti insieme, innanzitutto a scrivere insieme a me c'è mio fratello Matteo, e poi ci sono i miei fratelli in armi che sono Mauro, Uzzeo, Giovanni Masi, con cui siamo cresciuti insieme. Siamo tutti di un gruppo, diciamo, formato intorno ai castelli romani, ma eravamo tutti, come si dice qui, dei burini. Siamo cresciuti fuori Roma e siamo rimasti coesi da quando eravamo ragazzini fino ad adesso. Continuiamo a lavorare sempre insieme, quindi ci piace molto, è una cosa che amiamo molto. E poi questo gruppo si è allargato anche con i disegnatori, con i coloristi. Amiamo molto essere un clan, non nel senso negativo, insomma, proprio nel senso di condivisione, gomito a gomito, del flusso di lavoro, delle idee, delle cose. Quando scriviamo poi veramente recitiamo i personaggi, ognuno di noi si è ritagliato un piccolo ruolo. E una cosa particolare è che scriviamo spesso in romano e quindi dobbiamo ritradurre tutto quanto nella lingua comune. La collaborazione invece con Gipi, per quanto riguarda le copertine, come è avvenuta? Anche questo in una maniera molto simile. Gipi è venuto a vivere da qualche anno qui vicino a noi, quindi insomma lo conosciamo, siamo amici, abbiamo parlato di terra, e nello stesso periodo lui stava disegnando La Terra dei Figli, anche quello è una sua graphic novel che parla di un mondo post-atomico molto simile al nostro, insomma di una storia di fantascienza disperata e disperante, per cui ci siamo trovati su alcuni temi. Uno dei temi è come costruire il futuro, come lo immaginiamo, e il nostro, diciamo, modo di lavorare è aprire la finestra, guardare fuori e pensare e domani che succede. E così niente, chiacchierando più del meno ci è venuta voglia di fare questa cosa insieme. Lui è stato molto carino, che si è messo in gioco con noi facendo una cosa che non aveva mai fatto, poi, che sono le copertine per una serie, diciamo, chiamiamola mainstream, ecco. Anche Orfani Terra è corredato di contenuti speciali alla fine, appunto, del fumetto. Sì, ci piace fare dei libri molto gonfi, molto pieni di cose. Poi è un mondo, appunto, per costruire questo mondo, in realtà è uno spin-off come dicevo prima, però per costruirlo abbiamo sviluppato un metodo per creare più set e più personaggi rispetto a tutte le altre stagioni che avevamo costruito di Orfani, per cui è pieno di studi, di progettualità, anche di making of, insomma, e di racconti, perché è stato anche un'epopea disegnare e produrre questa storia, per cui ci andava proprio di fare un bel libro di quelli da collezione, ecco. Ti prego, chiamami tesoro adesso, mentre piove l'aria è fredda e ogni goccia d'acqua che mi sta bagnando mi parla un po' di te. E sono giorni che cammino senza meta, portandoti per mano. Se anche torneremo uguali a prima non importa, se dovrò mandarmi in cenere per ritornare a vivere. La pioggia mi feriva e non avevo più parole. Da quando non mi copri il tuo sguardo, è nuda la strada, i binari e le insegne, nuda sei tu. Il mondo ora è nudo se non lo copri il tuo sguardo. Siamo orfani ora.